Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, la cultura, la musica del nostro tempo, privilegiando il punto di vista degli animali non umani. Questa settimana parleremo di liberazione animale, di migrazioni, di cibo, del futuro della ricerca scientifica. Down on the playground. Skid to a halt on the runway. You cast a poisonous look to the sun. You know it just doesn't happen to anyone. You know this doesn't just happen to anyone. Dedichiamo questa puntata a Lea Döllinger, attivista australiana per la liberazione animale, sottoposta a ben 22 fermi di polizia per i suoi ingressi illegali in allevamenti di animali. Lea si è più volte introdotta in stalle e capannoni, a volte sola, a volte accompagnata da altre persone, nell'intento di far conoscere la reale condizione degli animali all'interno degli allevamenti. Spesso, durante queste operazioni, Lea ha portato con sé, quindi liberato, degli animali e perciò è stata accusata di una serie di reati che vanno dalla violazione della proprietà privata al furto. Noi, ha spiegato Lea, li chiamiamo salvataggi aperti perché non indossiamo un passamontagna e non nascondiamo la nostra identità. Facciamo così perché non ci consideriamo criminali. La legge australiana naturalmente dispone in modo diverso e addirittura negli ultimi anni sono state introdotte norme che mirano proprio a colpire gli attivisti animalisti. Lea oggi non nasconde la preoccupazione di finire un giorno in galera, ma non sembra intenzionata a interrompere la propria attività. Porto la gente all'interno di questi allevamenti, sostiene, per mostrare loro esattamente cosa accade, per poter fare dei video e poi condividerli con il pubblico. Quando facciamo queste azioni, il più delle volte i proprietari non sanno nemmeno che ci siamo introdotti. È solo quando vogliamo portare intenzionalmente la nostra azione sotto gli occhi di tutti che lo vengono a sapere. L'accusa più recente in effetti riguarda l'ingresso in un allevamento di maiali e la liberazione di 6 cuccioli, un furto di beni privati secondo la legge. La polizia è arrivata a Lea attraverso i metadati di un post su Instagram. Un'operazione di polizia neanche troppo difficile. Legge e giustizia, in questo caso, non coincidono. Dipende tutto dai punti di vista, dalla posizione morale che si decide di privilegiare. Noi siamo con Lea, pur sapendo che la legge alla fine farà il suo corso. From my hands, you know you'll never be more than twisted. timid smile and pause to free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chasing home. All God's children. La questione migratoria e il surriscaldamento del pianeta sono i temi più importanti del nostro tempo. E siamo portati, noi di Restiamo Animali, a declinarli concentrando l'attenzione sugli esseri viventi non umani. Ma è una prerogativa che ormai non è più solo nostra, nel senso che è diventato impossibile occuparsi del collasso climatico in corso senza considerare l'insieme degli ecosistemi, quindi anche la vita vegetale e la vita animale non umana. A questo proposito, in questi giorni si tiene in India il vertice detto COP13, dedicato alla tutela della fauna migratoria, elemento chiave della biodiversità sul pianeta. Non si parla solo di uccelli, visto che molti altri animali sono mobili sul territorio e stanno soffrendo la distruzione e la frammentazione degli habitat, oltre che il bracconaggio e gli effetti più generali del surriscaldamento. Le specie migratorie e le vessazioni che subiscono sono una perfetta metafora dei disastri del nostro tempo, ma rappresentano anche un possibile paradigma di rinascita. Un mondo a misura di migrazione, con libertà di spostamento e tutela di chi migra, sarebbe certamente un mondo migliore dell'attuale, coi confini che si irrigidiscono, promuovono egoismi e impediscono visioni d'insieme. Vale per gli animali e, ci pare, anche per gli umani. Ermanno Giudici, in un intervento sul sito ilpattotradito.it, scrive che il concetto di connettività ecologica costituisce la principale priorità per questa sessione della conferenza COP13. L'obiettivo è la creazione e il mantenimento di corridoi migratori sicuri che colleghino diverse aree geografiche. Un modo, scrive Giudici, per supportare concretamente le specie migratorie durante le diverse fasi dei loro cicli di vita naturali. Forse il mondo intero, aggiungiamo noi, andrebbe concepito come uno spazio in connettività ecologica. She was walking in and she looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up, rise up. You gonna rise. L'impatto ambientale dell'alimentazione umana è sempre più al centro dell'attenzione, da quando almeno si è cominciato ad ascoltare gli scienziati che si occupano dei cambiamenti climatici. Il modello alimentare prevalente in Occidente è una delle cause principali di consumo di suolo e di risorse scarse, come l'acqua, e una delle fonti maggiori di inquinamento e di produzione di gas serra. Gli stessi scienziati che studiano il clima sono arrivati a suggerire, ma forse dovremmo dire implorare, una drastica riduzione dei consumi di carne, via maestra per un'immediata riduzione delle emissioni climalteranti. La risposta dei governi e della stessa cittadinanza, a dire il vero, è stata più che tiepida. Decenni di consumismo, di cattiva educazione alimentare, oltre a una consolidata tradizione di pensiero specista e antropocentrico, non si cancellano facilmente. Alcune cose tuttavia si stanno muovendo. Cresce, troppo lentamente però, il numero di persone che compiono la scelta vegetariana e vegana, e si muovono anche le imprese, che stanno fiutando evidentemente un possibile nuovo corso degli eventi e quindi degli affari. È notizia di questi giorni il varo di un progetto pubblico-privato che si svolge fra Italia e Gran Bretagna e intende promuovere e sperimentare un modello di alimentazione detta sostenibile nell'ambito del progetto europeo Suitable Life. L'obiettivo è quello di pensare un modello alimentare capace in particolare di ridurre le emissioni di anidride carbonica e i consumi di acqua. In Italia sono coinvolte l'Università di Parma, il gruppo Barilla e la Ducati Moto Holding, e qui non sappiamo dire in verità quale sia il motivo del suo coinvolgimento. La filosofia del progetto, che coinvolge alcune migliaia di persone e si avvale di una piattaforma digitale britannica, coinvolgendo anche le mense pubbliche, è in realtà molto semplice e potremmo dire quasi banale. Prevalenza di prodotti di origine vegetale o loro derivati, quindi verdure, legumi, frutta, farro, orzo, riso, pane, pasta, couscous, polenta, possibilmente integrali e di stagione, e riduzione di tutto il resto, a cominciare dalle carni rosse. Insomma, niente di sconvolgente e nemmeno di coraggioso, ma il segno che la diseducazione alimentare e l'indifferenza per gli animali e l'ambiente sono fenomeni nocivi ormai universalmente inaccettabili. Messo a dura prova, anche un pragmatico convinto fissa il mondo e perde molto tempo, come me. L'evidenza degli eventi che rinneghi favorisce il trascorrere del tempo e il logorio che lo pervade. Dipendenza da dominio del mio tempo, madre della smania mia di anticipare il tempo stesso. E nel paludato Sanremo quest'anno c'è stata aria un po' di ecologia e animalismo. Tiziano Ferro ha donato i suoi introiti a un canile, come abbiamo sentito nella notizia. I pinguini tattici nucleari hanno adottato 100 pinguini veri. E il gruppo un po' folle degli Eugenio in Via di Gioia sono andati a Sanremo in bicicletta. Lasciamo spazio a Tiziano Ferro e ascoltiamo Nella buona e nella cattiva sorte in una versione non italiana, tanto per dare un pizzico così di esotismo alla puntata. Los ojos de tu padre, la boca de tu madre, en tu rostro hoy los dos siguen estando juntos. Te ha destruido el amor, es mi propio veneno. 26 letras y no importa, ninguno llama. Tu dolor es un lujo, escrito con tinta negra que ya tú borras luego si no te gusta lo que ves. No te preocupes, cariño mío, tan solo existe tu ser y el mío. Recogeremos cada insulto que nos tiren, cada piedra, para hacernos una trinchera. En la buena y la mala suerte, yo la amaré, la amaré hasta la muerte. En la buena y la mala suerte, yo la amaré hasta la muerte. Hasta la muerte, hasta que, hasta la muerte, hasta que no acabará. Hasta la muerte no se irá. abrázame fuerte a la luz del museo. Mientras gritas has cambiado y respondo que no es cierto. Un amor como el tuyo en mí, escrito todo de lágrimas, de mis obsesiones por experimentar dolores. Tu trabajo es escoger y convertirte en mi cárcel. No sé bien cuál es el truco, pero el plan lo tengo claro: controlar desde tu espacio. En la buena y la mala suerte, la amaré hasta la muerte. En la buena y la mala suerte, yo la amaré hasta la muerte. Hasta la muerte, hasta que, hasta la muerte, hasta que no acabará. No se irá, na na na na na na na na. Bésame todo lo que quieras. Bésame como si fueras a inventarlo hoy. Tómame con todas mis heridas. Tómate mientras que me quede vida. En la buena y la mala suerte, yo la amaré hasta la muerte. En la buena, la mala suerte, yo la amaré hasta la muerte. Hasta la muerte, hasta que, hasta la muerte, hasta que no acabará, na na na na na na na. Hasta la muerte, hasta que, hasta la muerte, hasta que, hasta la muerte no se irá, na na na na na na na na. A proposito dei tanti progetti oggi esistenti in campo alimentare, vi proponiamo una prova di degustazione. Abbiamo assaggiato uno dei prodotti sintetici di cui abbiamo più volte parlato in passato. Si tratta di Beyond Meat, un succedaneo sintetico dell'hamburger. Ve ne abbiamo parlato finora in termini ambientali, etici, economici. Vediamo il test del gusto, grazie alla nostra Camilla Lattanzi, inviata in Germania. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? Siamo a Norimberga e per lavoro e siamo venuti in un pub che si chiama King's Arms. King's Arms in Jakobsplatz. E ci siamo presi delle birre, la mia è una Guinness e facciamo un brindisi. Salute. È arrivata la nostra cena? Please continue in German. I just want to take. I can't speak German, sorry. Whatever. Okay, so that's the Beyond the Lux. And that's the cheeseburger. Okay. Beyond the Lux l'ha preso lui. Questo è il veggie burger, giusto? There's no space for you. There's just space for you. assaggiato la burger di carne sintetica, vi proponiamo qualcosa di meglio. Un piatto su base esclusivamente vegetale ideato dal nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore del libro Cucina Italiana Regionale Vegana, edito da Newton Compton. Gabriele si cimenta ogni volta con il commento gastronomico di una notizia della puntata. Stavolta il punto di partenza è la scelta compiuta da Tiziano Ferro, che ha devoluto a 5 diverse associazioni i compensi ricevuti per la sua partecipazione alle 5 serate del recente Festival di Sanremo. Una delle associazioni scelte dal cantante è Chance for Dogs, che si occupa di cani randagi ed è attiva in provincia di Latina. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Ogni anno, da 70 anni, c'è Sanremo. Ve ne sarete sicuramente accorti. E ogni volta, tutti quei soldi, invece di darli a Tizio, non li potrebbero spendere per Caio. Per una volta, qualcuno ha esaudito il desiderio di giustizia, devolvendo il suo compenso a 5 diverse associazioni, fra cui una che si occupa di cani randagi e abbandonati. Per questo, dedico la ricetta per un dolce ricco di ferro al generoso Tiziano Nazionale. Ingredienti per 4 persone per il fondente al cioccolato con granella di pistacchi sono 40 ml di latte di soia, 60 ml di olio di semi di girasole, 100 g di cioccolato fondente al 70% della vaniglia, 50 g di granella di pistacchi, cacao amaro in polvere e un pizzico di sale. Abra la cortina dei seus olhos. Vou pular no palco do seu colo. Vou cair no seu belo reflexo. Quero regar o jardim. Nel bicchiere di un frullatore ad immersione unite il latte di soia e l'olio di semi di girasole. Emulsionate spostando lentamente la lama del mixer verso l'alto e in pochi minuti otterrete una panna vegetale non troppo densa che lascerete riposare in frigorifero. A parte fate sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente che avrete precedentemente tritato. Fate attenzione a non far bollire l'acqua del bagnomaria affinché il cioccolato conservi tutti i suoi oli essenziali. Aromatizzate con della vaniglia e unite un pizzico di sale. Quando il cioccolato sarà ben fuso, unite la panna vegetale mescolando con una frusta fino a quando sarà ben amalgamata. Versate il tutto in uno stampo foderato con della carta forno. Spolverate di cacao amaro e decorate con della granella di pistacchi. Fate riposare per almeno 30 minuti in freezer prima di servire e se lo gradite potrete accompagnare con della panna montata vegetale. Yeah. Chiudiamo con alcune buone notizie che arrivano dal Parlamento italiano. La Camera dei Deputati ha approvato, come è noto, il cosiddetto decreto mille proroghe, all'interno del quale ci sono almeno tre provvedimenti positivi. In primo luogo è stata negata una nuova proroga alla possibilità di sperimentare gli effetti di alcol, droghe e tabacco sugli animali, come era stato richiesto da aziende e laboratori di ricerca scientifica. E in aggiunta è stato incrementato di 6 milioni di euro il fondo per la sperimentazione scientifica detta alternativa, alternativa cioè all'uso di animali, insomma la tecnica più moderna e più avanzata, che in realtà dovrebbe essere lo standard e non l'eccezione. Il ministro della Salute Roberto Speranza inoltre si è impegnato a presentare entro il 30 giugno prossimo una relazione sui programmi alternativi sostitutivi alla sperimentazione animale. Vedremo che cosa dirà il ministro. Intanto, come ha commentato Walter Caporale, presidente dell'Associazione Animalisti Italiani Onlus, se l'EPA, l'Agenzia per la Tutela dell'Ambiente statunitense, va nella direzione di ridurre ed eliminare totalmente entro il 2035 gli esperimenti su animali e la Commissione europea pone come obiettivo l'abolizione graduale della sperimentazione sugli animali, è ora in Italia di iniziare a riflettere seriamente sulle migliori pratiche suggerite dagli altri paesi e trasformarle in realtà concrete. In aggiunta a tutto questo, il sì al decreto mille proroghe implica che gli incassi derivanti dalle multe stradali possano essere utilizzati a favore degli interventi di ricovero degli animali randagi, oltre che per la sicurezza stradale. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Giuseppe Coco, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.